mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E bentornati come tutti i sabati sera qui su Radio Wombat, e questa è come sempre Tonight Alive. Stasera benvenuti per questo sabato sera all'insegna della musica dance. Questa sera andremo a scoprire, a sviscerare l'opera di Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo, che sono i Daft Punk, niente meno che i Daft Punk. Però volevo dare un taglio un po' più originale a questa, alla trasmissione, visto questa nuova modalità che ha preso Tonight Alive di far sentire anche la musica durante la trasmissione, non più solo io a parlarvi e per un sacco di tempo. Mi sembrava perfetto per questa nuova puntata improntata sulla dance di Tonight Alive di farvi sentire anche appunto l'opera, i pezzi, mixandoli uno dietro l'altro, in questo caso non proprio dei Daft Punk come Daft Punk, bensì, come probabilmente saprete, in ambito dance capita spessissimo che ci sono all'interno del gruppo, all'interno di un insieme di persone, varie etichette personali, e in questo caso andremo a scoprire le due etichette personali di Thomas Bangalter e Guy Manuel, che sono la Roulette e la Credamour Records. La Roulette più legata a Thomas Bangalter e la Credamour più legata a Guy Manuel de Homem Christo, con i loro vari progetti collaterali oltre ai Daft Punk. Ovviamente Daft Punk sono una pietra miliare della musica elettronica anni 90, hanno proprio dato il là a una, si può dire proprio una nuova forma ai tempi di musica elettronica, una nuova forma nel senso una nuova evoluzione di questo suono elettronico, figlio di un incrocio tra la techno, la house chicagoana, l'acid house che era esplosa in Inghilterra alla fine degli anni 80 e anche, si può dire, anche da una certa electro di inizio anni 80. E appunto quelli che poi diverranno i Daft Punk sono, come avevo già detto prima, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo, che se avete presente un po' l'iconografia del gruppo si rifaceva molto a quei produttori che rimanevano anonimi a Detroit. Mi vengono in mente i primi due nomi e tutto il collettivo dell'Underground Resistance e anche Idrexia, che sono un grandissimo gruppo techno di Detroit che non hanno mai rivelato la loro vera identità se non nel momento dello scioglimento. Infatti Daft Punk all'inizio si pensava che fossero due fratelli francesi e invece fratelli non sono. Thomas e Guy Manuel si conoscono a Parigi al Lycée Carnot nel 1987 e fondarono insieme a Laurent Brankovitz il gruppo rock dei Darling nel 1992 con Bangalter al basso, Guy Manuel Homem Christo alla chitarra e Brankovitz alla batteria. Il loro primo singolo era una cover dei Beach Boys, e in quello stesso anno, in quel 1992, la Duophonic pubblicò in un extended play fatto insieme ad altri artisti dell'etichetta. E i tre ricevettero una recensione abbastanza negativa di questo loro primo singolo da parte della rivista britannica Melody Maker, che definì la musica del gruppo a Daft Punky Trash, e visto che la cosa non andava e non piacevano, i Darling si sciolsero giusto un anno più tardi, nel 1993, e Brankovitz entrò a far parte del gruppo del fratello, i Phoenix, altro gruppo assolutamente legato al French Touch di quegli anni, e mentre Bangalter e De Homem Christo formarono appunto i Daft Punk, prendendo il nome da quella recensione non proprio entusiastica che dette il Melody Maker del loro primo lavoro. E iniziando a lavorare loro due insieme, iniziarono a sperimentare con sintetizzatori e drum machine. E nel settembre del 1993 i due consegnarono una demo a Stuart McMillan, che al tempo era, anzi è tuttora, il cofondatore dell'etichetta Soma Records, E da quella registrazione venne fuori la base del loro primo singolo di debutto, che si chiamava The New Wave, e fu messo in commercio in edizione limitata nel 1994. Poi appunto i Daft Punk tornarono in studio di registrazione nel maggio del 1995 e registrarono quel pezzo epocale che è stato Da Funk, che appunto è stato pubblicato nello stesso anno. Il singolo divenne il primo successo commerciale del gruppo, anche abbastanza grande. Si può dire che Da Funk è stato uno dei singoli che ha generato quella che poi è stata l'onda lunga degli anni 90, ovvero il French Touch. E appunto dopo questo primo grande successo, nel settembre del 96 firmarono per la Virgin Records e nel 1997 pubblicarono il loro primo album, Homework, che è veramente, secondo me, un disco epocale, come mi piace dire sempre, ma perché effettivamente lo è stato per l'evoluzione di un certo di questo tipo di musica. Ha dato veramente un tocco diverso alla musica elettronica di quel periodo. Un album pieno di capolavori, appunto, molto molto molto influenzato dalla techno di Detroit e dalla house chicagoana, e questo è un po' il loro tributo a quello che arrivava da oltreoceano, e lo rielaborarono appunto con questa visione francese. È proprio questo l'album su cui mi piacerebbe soffermarmi di più, perché per me è veramente una pietra miliare. E poi loro hanno continuato appunto con i grandissimi successi poi del 2001 di Discovery, l'album che tra l'altro conteneva il singolo One More Time, che sicuramente vi ricorderete. Però è anche l'album che segna la svolta del gruppo verso questo stile synth pop degli anni 80, che poi verrà proseguito appunto, visto il grandissimo successo di Discovery, verrà proseguito anche nel 2005 con Human After All, e nel 2013 altra esplosione sempre su quella linea lì, con il loro ultimo album di studio, che è Random Access Memory, che è appunto registrato nei primi mesi del 2012, poi pubblicato nella primavera del 2013, che vede delle collaborazioni. Tutti hanno fatto a cazzotti per collaborare con questo album dei Daft Punk. Tra i nomi che mi vengono in mente sono Giorgio Moroder, Pharrell Williams e Nile Rodgers, che tra l'altro entrambi hanno collaborato su Get Lucky, il grandissimo successo del 2013 dei Daft Punk. Ma siccome noi qua a Radio Wombat siamo diversi, appunto, e volevo farvi scoprire, e anche perché, detto sinceramente, fra noi, a me la svolta synth pop dei Daft Punk mi fa, cioè, ora stavo per dire una cosa che non volevo dire, però diciamo che rimango molto più legato a un tipo diverso di suono, e quindi volevo puntare un occhio su questa puntata, visto che ve la faccio io, quindi ve la beccate così, appunto, per dare un occhio alle uscite sulle due etichette personali di Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo, che, come vi dicevo prima, sono la Roulet e la Cry d'Amour. E come primo pezzo vi farei ascoltare di Bangalter, Club Soda. We'll be right back. 1998, Roulet 306. Questa invece è Le Night Club con Boogie Shell. Le Night Club era il progetto di Guy Manuel de Homem Christo insieme a Eric Chedeville. Questa è Cry d'Amour 005 1999, Radio Wombat. questo su Roulette 308 è DJ Falcon con First, dal suo album Hello, My Name is DJ Falcon, Radio Wombat. The Buffalo Bunch con Music Box Cry d'Amour 006 1999. We'll be right back. e questo è Thomas Bangalter con la sua Spinal Scratch. Roulette 302 1996, la bomba. Questa l'avrete sicuramente riconosciuta, un altro pezzo epocale uscito da casa Daft Punk, però sotto il nome del collettivo Stardust, che erano Alan Braxe, Benjamin Diamond insieme a Thomas Bangalter, infatti singolone uscito sulla sua Roulette nel 1997, Stardust, Music Sound Is Better With You. Together, I feel so good. questo è sempre DJ Falcon su Roulet nel 1999, sempre dal suo album Hello, My Name is DJ Falcon, Radio Wombat. Invece questo è, su, è l'uscita numero uno su Cry d'Amour, è The Night Club, Holiday on Ice. E fateci caso, qui c'è molto Around the World dentro, questa, dentro questo pezzo, e Around the World uscirà solo un po' di tempo dopo. The Night Club, Holiday on Ice. We'll be right back. questo è il roulette 306 del 1998, Thomas Bangalter con la sua Colossus. E adesso Buffalo Bunch con Take It to the Streets, Cry d'Amore 006. Buffalo Bunch erano Play Paul e Roman, ovviamente sempre su Cry d'Amore 1999. We'll be right back. altro pezzone per le nightclub su Cry D'Amour, 003 in questo caso, dall'EP, anzi dal singolo dove il lato A era Troubadour. Questa è Mirage, le nightclub. Questo è il Thomas Bangalter remix di Rock Shock di Roy Davis Jr. 1998 su Roulet, esattamente Roulet 304. Radio Wombat, Tonight Alive, Daft Punk. Questo è Babbo Natale, Santa Claus per le nightclub, sempre su Cry d'Amour, sulla prima uscita, che era il lato A di Holiday on Ice. Questo è Cry d'Amour 001, le nightclub, Santa Claus. Questo è un altro pezzone della Madonna, Cry d'Amour 008 del 1999 del solo Roman, e questa è la sua Lovers. Le bombe! Time to get rhyme with. time has come to make a decision. Are we in this thing alone? Or are we in it together? Questa, sempre su Etichetta Roulette, dell'agosto del 2000, di Thomas Bangalter con DJ Falcon, è Together. Yeah. have some kind of power, they want to make it difficult for you. You know, they may have some control over your job, or some control over your money, or some control over some aspect of your life, or some control over some desire. E l'ultimo pezzo di questo DJ set per la Roulette, la Ecrada Moore, non poteva che andare per il compianto Romain Tony con la sua leggendaria Hold On, un vero ponte fatto di beat tra Parigi e la house di Chicago, ma nel suo lato più assolutamente soul e nero. Su Roulette 307 del marzo del 1999, Hold On, Romain Tony. You're coming up another put down. You feel the world is on your shoulders. No love around. Ooh. You say you're in for stormy weather. The sun ducked away behind the cloud. Can't seem to get your thing together. Can't get turned on. Ooh. There's a reason for the madness. Somebody's got to tell you. It seems all of it's gone. There's one thing you might miss. Hold on. You Questa era la bellissima Hold On di Roman Tony. Come dicevo appunto durante il mixaggio, non potevo che non finire con lui, un gesto d'affetto a uno dei grandi della musica house, scomparso un po' di tempo fa, autore tra l'altro di un album fondamentale nel 1997, Roman World. Un album fondamentale ovviamente per a chi piace questo genere musicale. Roman World è stato veramente uno dei grandi album house di fine anni 90, e questa appunto era la sua, come dicevo, Hold On, edita su Roulette, e questo era l'ultimo pezzo del CD mix per questa puntata speciale, sì sui Daft Punk, ma con un occhio particolare alle loro attività, anzi alle loro etichette soliste, rispettivamente la Roulette e la Cry d'Amour. E come uso e costume di questa trasmissione, a questo punto non mi resta che lasciarvi al DJ set che ho scelto per voi dei Daft Punk di stasera. Ovviamente vi ho fatto sentire le loro opere nelle etichette personali, non potevo farvi sentire anche proprio un set proprio dei Daft Punk, loro due insieme al leggendario Rex Club di Parigi nel 1997, per essere precisi il 15 maggio del 1997. Non vi ho fatto sentire nessuna delle, a parte la sigla dei grandi pezzi contenuti nel loro homework, ma anche perché in questo DJ set, è giusto, ovviamente essendo del 97 l'anno di uscita di Homework, è pieno dei pezzi contenuti nel loro mitologico album, ad esempio da funk, addirittura mixata con un'altra versione, un remix di Armand Van Helden, del grande Armand Van Helden, Rolling and Scratching, Revolution 909, Around the World, c'è anche The Chase di Giorgio Moroder, insomma tutto pieno di grandi pezzi, però non aspettatevi niente di così auseggiante come ora. Il DJ set del 97 è proprio techno senza prigionieri, e quindi non mi resta che lasciarvi a questo infuocato set dei Daft Punk nel 1997. Ma prima di abbandonarvi, se no mi bastonano come sempre, ricordiamo i nostri canali social, che ovviamente il sito wombat.noblogs.org, la nostra amata mail che è postawombat@insiberia.net, i nostri canali social che sono Twitter su twitter.com/radiowombatfi e la nostra pagina Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze. E a questo punto il vostro Dalai Lama vi saluta, vi augura un buon proseguimento di sabato sera, e ci sentiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat per il prossimo sabato. Un bacione a tutti!